Quanto si gode, liete ben contesta, di fior sopra, crin. D'una grillanda che l'una e l'altro manda. Quanto si gode, liete ben contesta, di fior sopra, crin. Do. D'una grillanda che l'una e l'altro manda. Come che il primo sia baciar la testa, come che il primo sia baciar la testa, come che il primo sia baciar la testa, come che il primo sia baciar la testa. Come che il primo sia baciar la testa, come che il primo sia baciar la testa, come che il primo sia baciar la testa, come che il primo sia baciar la testa, come che il primo sia baciar la testa. Contenta è tutto il giorno quella vesta che serra il petto e poi par che si spanda quel coro filato si domanda. Contenta tutto il giorno quella vesta che serra il petto e poi par che si spanda e quel coro filato si domanda. Le guance il collo di toccar resta mai più lieto, quel nastro pare che goda dorato in punta con si fatte tempre che preme tocca il petto che egli allaccia. la schietta cintura che s'annoda. Mi par di seco qui vo stringer sempre, e la schietta cintura che s'annoda. Mi par di seco qui vo stringer sempre. Dunque le mie braccia e la schietta cintura che s'annoda. Mi par dir seco qui vo stringer sempre e la schietta cintura che s'annoda. Mi par di seco qui vo stringer sempre, or che fare buon dunque le mie braccia. Come può essere che io non sia più mio? Come può essere che io non sia più mio? Oddio, oddio, oddio, chi m'ha tolto a me che me fosse più presso o più di me potessi che possia. Chi m'ha tolto a me che me fosse più presso o più di me potessi che possia. Quanto si gode liete ben in contesta di fior sopra crin. Una grillanda che l'una all'altro manda, quanto si gode liete ben contesta di fior sopra crin. D'una grillanda che l'una all'altro manda, come che il primo sia baciar la testa, come che il primo sia baciar la testa.